Riaprono i confini europei con il resto del mondo, ma gli Stati Uniti restano fuori e l'Italia decide di lasciare l'obbligo di quarantena per chi arriva da fuori dai confini di Schengen. Una mossa di cautela, ma che apre potenziali problemi, come potrete immaginare, per il settore turistico. Del resto, il ministro Speranza è tornato ieri ad esprimere le preoccupazioni sul virus in una giornata che ha visto novità in arrivo dalle zone della Val Seriana. 110 polmoniti sospette tra novembre e dicembre, sulle quali non sono state fatte verifiche. Gli altri fronti. Oggi la Germania assume la presidenza di turno dell'Unione Europea in una fase delicata. Si discute, come sapete, del Recovery Fund. E oggi Hong Kong ricorda i 23 anni dal ritorno sotto il dominio cinese e lo fa con una stretta di Pechino sulla sicurezza che è sostanzialmente repressione. A chiudere il calcio, beh, lo sapete, la corsa a due prosegue, Juve e Lazio sempre distanziate di 4 punti dopo le partite di ieri sera. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, buongiorno, sono le 6:31 e 48 secondi. È mercoledì 1 luglio dunque. Buongiorno. Con la task force di questa mattina, composta da Carmelo Lauricelli in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi vi aspetto al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, ma anche messaggi scritti. Come quello di Duccio che scrive, non so se a me, alle 6:20 di questa mattina, "Forza Lazio!" Me lo fa apposta, me lo fa apposta. Io... finché il distanziamento sociale, come lo chiama Carmelo Lauricella, tra Juve e Lazio rimane di 4 punti, va bene, va bene. Per carità, nulla contro i cugini, chiamiamoli così, della Lazio. È una squadra quella di 24 Mattino, una task force dove c'è una grande diversity su questo fronte, perché Alessandro Marco Tulli, per esempio, è laziale. E lavoriamo insieme serenamente, con amore. Ah, Anita è romanista, vedi? Ah, vedi, vedi. Va bene, muoviamoci dal calcio, basta, basta, basta. E andiamo alle questioni, inizierei da quelle che hanno... che fare con il virus, posto che naturalmente un po' di riflettori puntati su queste decisioni sull'Europa, dell'Europa sui confini, li dovremmo tenere naturalmente. Ieri ha fatto molto discutere, hanno fatto molto discutere le parole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto il peggio non è passato, lanciando segnali di preoccupazione. Fa notare giustamente il professor Lopalco, che tra l'altro sarà il nostro ospite alle 8:20. Guardate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrà tutte le colpe del mondo, sarà tutti i problemi del mondo, però non è un'organizzazione internazionale, quindi non è che quando dice il peggio deve ancora arrivare sta parlando all'Italia nello specifico. Ci sono luoghi nei quali affrontare la pandemia è molto più difficile, Lopalco. È un discorso globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto preoccupata per il fatto che oggi il virus stia riprendendo forza proprio in quelle aree del mondo in cui i sistemi sanitari non sono preparati, in cui non c'è un sistema sanitario pronto alla risposta e soprattutto alla mitigazione di quella che può essere un'ondata pandemica. Guardate il Sud America e poi si è molto preoccupati ovviamente anche per l'Africa o per grossi subcontinenti come il subcontinente indiano. Parliamo di centinaia di milioni di persone che in questo momento rischiano di avere l'ondata pandemica. E il professor Crisanti conferma, non è peggio di prima. Peggiore di prima non lo può dire nessuno, perché specialmente parliamo dell'Italia. L'Italia sicuramente è in una situazione completamente diversa da quella di 3 mesi fa. C'è una maggiore consapevolezza nel pubblico, nelle persone, c'è una aumentata capacità di reazione, una consapevolezza culturale di anche come affrontare questi focolai, quindi sicuramente non sarà come prima. Il viceministro Sileri, il virus è sotto controllo, dice. Se il virus è anche mutato, questo chiaramente lo diranno i lavori scientifici, però l'evidenza clinica oggi è che questo virus è sotto controllo, significa che si diffonde di meno si diffonde, chiaramente meno saranno i malati gravi che arrivano in ospedale, ma quello che mostra Clementi, e immagino altri scienziati in futuro confermeranno ciò che lui dice, anche questi positivi di oggi sono positivi e non sono malati. A tutta la questione Covid torneremo tra un attimo. E arriveremo a questi 110 dei quali si parla, questi 110 polmoniti anomale in Valseriana, sulle quali evidentemente non si è indagato abbastanza tra novembre e dicembre. C'è tutta la questione politica e delle azioni di governo, si viaggia ancora una volta tra il MES, il Fondo Salva Stati, e il decreto semplificazioni che dovrebbe arrivare, si diceva, arriva a metà settimana. Oggi sarà a mezzogiorno un altro vertice di maggioranza, forse ci siamo, di certo quello che viene stralciato è il condono, a quanto pare alle notizie di ieri sera. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, come stai Agnese? Buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Eccoci. Buongiorno. Allora, qua ti porterei un attimo sul filo della politica, perché c'è l'attenzione della giornata sarà sicuramente concentrata sulle questioni europee, perché da una parte abbiamo queste decisioni di Bruxelles in arrivo sui confini e che di fatto ieri sono state confermate. Cosa succederà? Apriamo a tutti, tranne che agli Stati Uniti. A molti tranne che agli Stati Uniti, la Cina con alcune precauzioni, gli Stati Uniti chissà, il che ovviamente qualche problema per il nostro turismo lo può creare. Con la decisione del ministro Speranza all'altra parte di mantenere la quarantena per chi viene da paesi extra Schengen, e anche questo qualche problema al turismo potrebbe crearlo, e sicuramente di questo ci sarà da parlare. C'è il decreto semplificazioni in ballo, siamo qua in attesa che ci venga semplificata la vita, e dall'altra parte la discussione sul MES che resta, mi pare, apertissima all'interno dell'esecutivo, no? Della maggioranza. Ma sul fronte sono tre temoni che hanno sviluppi diversi, cioè sempre su tutti e tre l'ombra in senso positivo e negativo anche dell'Europa, no? A pesare moltissimo anche sui giochi degli equilibri politici interni e con i nostri partner europei. Sul fronte delle aperture parziali, aperture a singhiozzo, la cosa da cui bisogna sempre partire, io credo, nel fare una valutazione, è quella che in fondo è vero che dobbiamo mediare tra la necessità di dover ripartire, di rimettere in moto un certo tipo di economia, e c'è una necessità vitale di fatto, perché lo vediamo in queste settimane, in questi giorni, no? quanto soffra il nostro mondo economico anche e soprattutto in virtù delle chiusure, però al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che arriviamo da mesi di lockdown che non possono essere spazzati via con un colpo di spugna come se nulla fosse, per cui imporre dei requisiti minimi di sicurezza per chi rientra dentro i nostri confini, a fronte del fatto che la pandemia ce la siamo appena lasciata alle spalle forse, e che ne l'abbiamo patita moltissimo, cioè non è stato uno scherzo, è stato un gioco, per quanto oggi alcuni mettano in discussione il lockdown, le misure eccessive, eccetera, insomma. Vabbè, ma è chiaro, Agnese, no, finita la fase acuta della pandemia, improvvisamente tutti scoprono, no, per carità, è stata una chiusura eccessiva, poi però, ripeto, andatelo a raccontare in Valseriana che la chiusura è stata eccessiva, andatelo a raccontare negli ospedali, no? Andiamo a raccontare a tutti noi stessi due mesi fa, quando la paura per quello che accadeva ogni ora, ogni giorno era fortissima, e non perché ci fosse qualcuno che seminava il panico, era fortissima perché i numeri, i dati oggettivi ci dicevano che la situazione potenzialmente poteva finire fuori controllo. In alcune aree del nostro paese questo è accaduto, nel resto d'Italia non è accaduto, ma il giochino del se avessimo fatto, forse avevo esagerato, lo trovo francamente fuori contesto. Oggi bisogna continuare ad avere buon senso anche nel stabilire le modalità della riapertura. Non farlo sarebbe folle rispetto a tutto quello che si è fatto finora. C'è un governo schizofrenico, potrebbe adesso dire vabbè, abbiamo scherzato, sì, riapriamo tutto tutti, no? Anche perché gli indici del contagio nel mondo sono differenti adesso, sì, e quello che dicevate all'inizio di trasmissione sull'OMS è assolutamente logico e oggettivo, no? Ci sono aree del mondo in cui la pandemia è tutt'altro che... Sì, ma poi Agnese, diciamoci la verità, come fai sbagli in questa fase? Perché se Speranza avesse detto apriamo a tutti, facciamo, no, senza problemi, se l'Europa avesse detto apriamo a tutti senza problemi, dall'altra parte qualcuno avrebbe detto ma siamo matti, negli Stati Uniti Fauci ha detto ieri sera potremmo arrivare ai 100.000 contagi al giorno, questo ha detto l'esperto utilizzato dalla Casa Bianca, il grande infettivologo usato dalla Casa Bianca, quindi così è, come fai sbagli. È il gioco delle polemiche, insomma, sì, mi sembra veramente. Sì. Siamo, ecco, un fronte aperto, come dicevamo prima, è ancora quello del famoso Fondo Salva Stati, il MES, grande tema di discussione, abbiamo parlato anche ieri largamente a 24 mattino, però ci si torna perché tutto si intreccia con la trattativa per arrivare al famoso Recovery Fund, ossia il fondo per la ripresa europeo. Qual è il punto? No? Aspetta, Agnese, no? Giusto per chiarire agli ascoltatori, il punto è, l'idea è che il non accettare i fondi o il tentennare sul fondo salva stati possa portare a un blocco delle trattative, a un problema nelle trattative su tutto il resto, sulle altre partite europee. È un po' questo il punto, Agnese. Il punto sì, è assolutamente questo, ed è anche legato al fatto che oggi, inaugurandosi la presidenza tedesca, si apre, lo dicono, insomma, c'è scritto, no, in questi giorni, si apre una fase decisiva per le svolte future dell'Unione Europea, ovviamente il paese traino dell'Unione da un punto di vista economico e anche alla fine politico assume questo incarico di responsabilità, quindi va a incidere su alcune posizioni. In questo dato di fatto temporale, perché si parte oggi, si innesta anche un altro aspetto più squisitamente politico e di rapporti internazionali fra Merkel e Conte. L'atteggiamento è cambiato da un po' di tempo a questa parte. La Merkel ha avuto una posizione politica più morbida nelle prime settimane post fase 1, chiamiamola così, no? Quando appena messo fuori il capino dal dramma sanitario, i paesi iniziavano a dire adesso cosa facciamo, sì, quanti soldi ci diamo. La Merkel ha avuto una posizione più equilibrista tra i vari paesi, cercando di mediare, cercando di porsi in una chiave appunto morbida. Adesso ha cambiato strategia sta mettendo comunque Conte e il nostro governo alle strette su una questione che crea soprattutto imbarazzi politici all'interno della maggioranza, perché questo è l'altro grosso nodo. È questo il fronte di maggioranza che non tiene, sì, che si non tenere sul mese. Sì. La Merkel adesso sta facendo pressioni importanti su questo, su questo aspetto, cioè, ha cambiato modo di fare, sì, vuole arrivarci in fondo. Sì, il concetto è questo: se volete che io, da paese mezzo frugale o quasi ex frugale, convinca i cosiddetti frugali, ossia l'Olanda, l'Austria e via dicendo, a dare il via libera al recovery fund come lo volete voi, beh ragazzi, dovete dimostrare che state dentro a questo schema, che effettivamente ce n'è bisogno. Sentiamo su questo due posizioni diverse all'interno della maggioranza, sono quella di Graziano Del Rio e di Manlio Di Stefano, che è il sottosegretario agli esteri. Il baco è baco, poi diventa farfalla. Se diventa farfalla, è inutile che ragioniamo di quanto fa schifo un baco. È diventato un'altra cosa. Ora, uno dice: io voglio avere tutte le garanzie, e tu gli dici: hai ragione, vediamo, mettano nero su bianco. Ma nel momento in cui mettono nero su bianco il Presidente della Commissione, l'Eurogruppo, in cui è scritto che è una linea speciale di credito, io credo che davvero sia difficile non arrendersi di fronte all'evidenza. Cioè, non possiamo governare in un momento in cui la gente sta appunto soffrendo così tanto, ha sofferto così tanto, governare con l'ideologia. La base della nostra obiezione al MES è che il trattato o lo modifichi o è in vigore. E siccome il trattato prevede che vengono modificate le condizioni anche susseguentemente alla richiesta del prestito, perché quello è un prestito alla fine, noi diciamo: abbiamo fatto una grande lotta in Europa per ottenere il recovery fund da 170 miliardi, ma perché dobbiamo stare a parlare del MES? E così è, traffico. Grazie a Eolo, internet ultraveloce raggiunge anche le imprese dei più piccoli comuni italiani. Scopri Eolo Impresa Start. Bastano 5 giorni per attivare la connessione e navighi fino a 100 mega senza limiti. In più hai un servizio di assistenza immediata sempre attivo. Il tutto con un prezzo in promozione da 50 euro al mese anziché 85. Per avere Eolo Impresa Start, chiama il numero verde 800 939 939 o vai su azienda.eolo.it. Eolo. Internet dove gli altri non arrivano. Mattino. Dunque, le questioni che hanno a che fare con il virus e quello che trovate un po' su tutti i giornali oggi, i dati che indicano che nella in Valseriana, qualche ascoltatore ci segnala e ci dice: ma guardate che anche in altre parti d'Italia già in novembre e dicembre si registravano delle polmoniti anomale. Saluto il nostro amico Isaia Invernizzi, che è giornalista dell'Eco di Bergamo, che è un po' l'uomo che è stato dietro anche a tutte le questioni che hanno a che fare con i dati su Covid-19, quelli effettivi, quelli presunti. Isaia, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Eccoci qua. Senti, che cosa emerge a questo punto su queste polmoniti di novembre e dicembre, che chiaramente modificano anche i termini dell'inchiesta giudiziaria che è aperta, che deve capire se in quei giorni di febbraio fare il lockdown delle zone di Alzano e Nembro era giusto o non era giusto e chi doveva farlo, perché è chiaro che se il virus circolava da quel momento diventa un po' difficile ragionare intorno a quello. Però intanto dacci un'idea. Il punto è esattamente quello, nel senso che la domanda che gli inquirenti si stanno ponendo è: ci si poteva accorgere che c'era qualcosa di anomalo già prima di febbraio e di marzo, quando c'è stata l'esplosione dei casi? Beh, in Valseriana, come è emerso dai dati che sono stati resi noti dalla stessa ATS di Bergamo dopo una richiesta di accesso agli atti di un consigliere regionale bergamasco, Nicolo Carretta, emerge che già a dicembre, novembre, dicembre e gennaio c'è stata una crescita di polmoniti da agente non riconosciuto, così vengono definite. Una crescita netta, 40 solo a dicembre per un ospedale di piccole e medie dimensioni come Alzano, e 52 a gennaio. Stiamo parlando solo di ricoveri, quindi di persone comunque in condizioni piuttosto gravi. ATS ieri ha diffuso una nota in cui dice che sostanzialmente ricorre una certa stagionalità e quindi era difficile accorgersi di quello che stava succedendo, però effettivamente la crescita e questo campanello d'allarme poteva ovviamente suonare e sarà molto importante un'ulteriore indagine che ATS ha confermato di voler fare sugli accessi ai pronto soccorso e soprattutto sulle, sui referti e sui medicinali prescritti dai medici di famiglia che in questi mesi hanno testimoniato e confermato in tutti i modi che effettivamente ci sono state delle polmoniti anomali. Io ricordo, Isaia, che era stato ospite nostro anche un medico di famiglia, appunto, il quale ci aveva detto: guardate che io mi sono ritrovato nel periodo di dicembre a visitare una coppia, che marito e moglie, che avevano una polmonite che con gli antibiotici non passava, e già questo, no, può rappresentare un segnale. Immagino di testimonianze così ne abbiate raccolte tantissime voi sul territorio. Sì, tantissime, addirittura l'Ordine dei Medici ha promosso un questionario che noi abbiamo già pubblicato qualche settimana fa, quindi insomma la notizia era nota, che sono state registrate 1600 polmoniti anomale su 81 medici che hanno risposto. Ricordiamo, i medici in provincia di Bergamo sono 666, quindi insomma anche una minima parte aveva comunque confermato questa tendenza che adesso ATS per fortuna indagherà sempre più a fondo, non tanto per quello che è successo ma quello che succederà sostanzialmente per il prossimo autunno, perché insomma con il senno di poi è anche più facile fare analisi e importante farle in tempo reale. Sì, ci scrive Paolo, un ascoltatore da Mapello, e siamo sempre nell'area naturalmente. Mia moglie al 7 di dicembre ha cominciato con una polmonite terminata verso la fine di gennaio, ha cambiato 4 antibiotici ma non passava, ha fatto il sierologico autonomamente, lei ha gli anticorpi e nostra figlia no. E anche qua sono un po' le testimonianze dei cittadini delle province di Bergamo, Isaia, che raccontano. Sì, noi ne abbiamo raccolte davvero migliaia negli ultimi mesi. È bene specificare ovviamente che il punto è proprio che non possiamo essere certi che siano coronavirus, certo. Perché il tampone è stato fatto solo in provincia di Bergamo, il primo tampone è stato fatto il 22 febbraio, tra l'altro contraddicendo alle circolari del Ministero della Salute, come è stato anche a Codogno. Ma il punto su cui sta indagando e sta cercando di fare chiarezza la Procura è proprio questo: se c'era lo spazio per fare evidenziare questa presenza di polmonite anomale già prima di febbraio, quando ormai tutto era perso, diciamo così, oppure no. A chiudere c'è un piccolo altro elemento di politica sul quale vi voglio portare. Ringrazio Isaia Invernizia dell'Eco di Bergamo, grazie Isaia anche per il bel lavoro che hai fatto in questi mesi e che stai continuando a fare, che state continuando a fare all'Eco di Bergamo, la città più ferita da Covid-19, con Agnese Pini che è rimasta con noi. Agnese, ti faccio sentire una voce, perché questo è un po' il temone che sta animando il dibattito politico al di fuori di tutte le questioni di Covid. Sentiamo Tajani, Carmelo, Lauricella, eccoci. Ecco perché a chi quel giorno disse game over, oggi noi diciamo game open, cioè la partita politica è riaperta. Vogliamo che attraverso una di cosa parliamo? Ovviamente, cara Agnese, parliamo di questi audio di un giudice, di un magistrato che era poi l'estensore della sentenza su Silvio Berlusconi nella complessa vicenda della compravendita dei diritti dei film con la società di Farouk, detto Frank Agrama, il quale in queste registrazioni dice, in queste registrazioni audio, purtroppo il giudice Franco è scomparso un anno fa, dice: c'era un plotone d'esecuzione, quella condanna, quella sentenza non doveva essere scritta così, non doveva arrivare la condanna, eccetera eccetera, e si riapre tutto un capitolo che è un pezzo in realtà, Agnese, della storia del nostro paese recente e dei rapporti tra politica e magistratura che non riusciamo a risolvere da 30 anni. Sì, è una delle code finali di questo problema, e quando tu chiedevi all'inizio di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando dell'ennesimo colpo inferto al potere giudiziario del nostro paese, cioè in fondo questa vicenda che ha tutta una partita politica rispetto a Forza Italia, che ieri ha chiesto appunto la riabilitazione di Berlusconi, il suo ruolo passato e quello che deve avere o riavere in futuro. Però poi c'è un altro tema che io direi forse più forte ancora o più urgente ancora, che è quello che c'è il potere giudiziario in crisi, lo abbiamo visto con le vicende dell'ultimo anno, e questo è l'ennesima figuraccia. Esatto, questo è un pezzo che entra in questo puzzle e apre e riapre la riflessione. E poi c'è l'aspetto più puramente politico e anche giudiziario, naturalmente, ragazzi. Ci torniamo, lo dico agli ascoltatori, uno dice solo pochi secondi, non vi preoccupate, ci torniamo in rassegna stampa, questo è un tema che resterà, state tranquilli. GR24, a tra poco.